falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Quando sentiamo un leone che ruggisce o una musica come questa, la nostra immaginazione vola immediatamente al cinema. Abbiamo iniziato così perché la storia di oggi è per l'appunto una storia di cinema, una storia hollywoodiana del periodo d'oro del cinema americano delle grandi major, ma soprattutto la storia di una delle stelle che quel cinema ci ha regalato, Rock Hudson. E per una volta cominciamo dalla fine. La star del cinema Rock Hudson è morta nella sua casa di Coldwater Canyon questa mattina. Il corpo dell'attore è già stato cremato. Il reporter di Channel 4, John Marshall, ha passato la giornata nei pressi della casa di Hudson. Sentiamo il suo servizio. La battaglia di Hudson contro l'AIDS è giunta alla fine alle 9 di questa mattina. Il suo medico personale ha esaminato il corpo nella casa dell'attore a Coldwater Canyon, vicino a Beverly Hills, e più tardi ha confermato che la morte è stata provocata da complicazioni dell'AIDS. Abbiamo cominciato dalla fine, da quella mattina del 2 ottobre del 1985 in cui Rock Hudson fu trovato morto nella sua villa non lontano da Beverly Hills. Abbiamo iniziato dalla fine perché Hudson non è solo stato un attore, una movie star di Hollywood, è stato anche il primo personaggio famoso a morire di AIDS, di quel virus del quale in quel periodo si sapeva poco, se non che faceva paura, che uccideva. Si sapeva poco, ma c'erano anche un sacco di pregiudizi e di informazioni sbagliate. Quella morte aprì gli occhi all'opinione pubblica sulla malattia che di lì a poco avrebbe colpito milioni di persone nel mondo. Ma torniamo nei ranghi e facciamo un passo indietro fino al 1925. Rock Hudson, il cui vero nome era Roy Harold Shearer, nasce sotto il segno dello scorpione, 17 novembre 1925, a Winnetka, un paesino a una ventina di chilometri dalla periferia di Chicago. Siamo nell'Illinois. Il padre è un americano di origini tedesche e svizzere, la madre invece è di ceppo irlandese. Una coppia che naufraga quando Hudson è un bambino di soli 8 anni, con già qualche problema a scuola, provocato da una lieve forma di dislessia. La separazione dei genitori naturalmente peggiora le cose, insieme a una situazione familiare abbastanza complicata, perché Rock viene adottato dal secondo marito della moglie alla morte del padre biologico e ne prende il nome diventando Roy Fitzgerald. Della sua infanzia non si hanno grandi dettagli, se non che non fu proprio felicissima. Poi lo troviamo poco più che diciottenne durante la Seconda Guerra Mondiale nella Marina degli Stati Uniti, con l'incarico di addetto alla manutenzione meccanica dei velivoli. E deve essere bello in divisa da aviatore, perché Rock Hudson ha un fisico prestante, è una specie di gigante di 1,95 m. Dopo la guerra fa qualche lavoro saltuario, tra cui il camionista, ma le sue caratteristiche fisiche non passano inosservate. E lo nota un agente cinematografico, un certo Henry Wilson, omosessuale dichiarato, che gli procura un provino a Hollywood. Welcome to Hollywood! What's your dream? Everybody comes here. This is Hollywood, land of dreams. Some dreams come true, some don't. But keep on dreaming. This is Hollywood. Always time to dream, so keep on dreaming. Hollywood, terra di sogni ma anche di finzione. Roy se ne accorge in fretta e l'agente che l'ha scoperto, Henry Wilson, inizia a lavorare su di lui, in particolare sulla sua immagine. Intanto gli cambia il nome, una star non è che può chiamarsi Roy Scherer o Roy Fitzgerald, meglio qualcosa di più maschio, di più duro, come Rock. Pare che Wilson pensi alla Rocca di Gibilterra quando decide per quel nome. Altre versioni dicono che faccia riferimento alle montagne rocciose. Per il cognome non c'è nessun dubbio. C'è il fiume di New York, l'Hudson River, che con Rock ci sta benissimo. Quindi Rock Hudson, perfetto. Probabilmente sono invenzioni per i giornali, e perché secondo la biografia ufficiale del nostro protagonista, pubblicata dopo la sua morte, quei nomi vengono scelti a caso dall'elenco telefonico durante un party gay. Beh, dell'omosessualità di Hudson parleremo tra poco. Diciamo che Wilson lavora su questo giovane e vigoroso ragazzotto dell'Illinois, intanto gli paga un intervento correttivo ai denti per renderli perfetti, e poi cominciano anche le lezioni di recitazione e di canto. You are my inspiration, my love. I grandi attori americani devono sapere cantare, ballare, quindi queste lezioni gli serviranno. Nel frattempo debutta con un film che si chiama Falchi in picchiata. Lui non è proprio un grandissimo attore in quel momento, si racconta di battute ripetute più volte, però può diventare il nuovo sex symbol di Hollywood, il beniamino del pubblico femminile. La Universal Picture rileva il suo contratto e intanto ci sono altre lezioni di recitazione e la sua carriera sta per prendere il volo, anche se all'inizio c'è una gavetta da passare, quindi film di non grande spessore, qualche poliziesco, qualche western, però la grande occasione sta per arrivare e i film importanti sono alla porta. Tra poco il resto. Raccontando la storia di Rock Hudson, l'attore dal bell'aspetto che però poi scomparve per la malattia che si stava annunciando come essere la malattia di fine secolo. Siamo intanto all'inizio degli anni 50, Rock è sotto contratto con la Universal Picture che lavora su di lui e sul suo bell'aspetto per farne il sex symbol per tutte le donne d'America e quindi del mondo. Il suo agente è uno dei più potenti di Hollywood, però per fare carriera l'immagine è tutto, soprattutto in quella Hollywood, e il salto di notorietà Rock Hudson lo fa grazie a una trovata del suo agente. Ci racconta quell'aneddoto il massimo esperto di Hollywood e di segreti delle star, Paolo Limiti. Il colpo gobbo lo fece quando fecero una festa da ballo, no? Allora si usava fare queste cose e i fotografi del cinema facevano un ballo ogni anno che si chiamava il ballo dei fotografi, dove andavano tutti gli attori vestiti come a carnevale, cioè erano tutti, sai, in costume, e lui ebbe l'idea, di una grande idea. Lui aveva sotto contratto anche una ballerina del cinema molto nota, allora funzionava la grande, si chiamava Vera Ellen. Questa Vera Ellen era una ballerina ed era quando stava con Wilson, e lui Harry gli ha detto: guarda, andate insieme. Li spogliò tutte e due, gli mise un costume da bagno e li dipinse d'oro, come sai nel film di Goldfinger, e gli disse: tu andrai come la statua dell'Oscar e tu come la statuetta dell'Oscar femminile. Andando con Vera Ellen, anche se lui era sconosciuto, tutti i fotografi, come vedono arrivare Vera Ellen al fianco di questa cosa, scattarono tutte le fotografie su di loro, perché era molto originale, poi erano nudi, praticamente nudi, insomma, in costume da bagno. E di lì è partita la sua carriera, la grande. Beh, il marketing era già molto importante, quindi denti nuovi, corsi di canto e recitazione e una sapiente attività di comunicazione per proporlo come il bello di Hollywood. E in effetti Rock Hudson è un bel ragazzo, però nell'operazione della Universal c'è anche un cover up, come direbbero gli americani, cioè un depistaggio, perché Rock Hudson è omosessuale da sempre, al massimo bisessuale. Nell'ambiente lo sanno tutti e a Hollywood circolano voci insistenti. Quelli che però non devono saperlo sono gli spettatori e soprattutto le spettatrici. Gli anni 50 non sono proprio anni di tolleranza e comprensione per chi dichiara di essere gay, quindi se si sapesse che quel bel ragazzone di 1,95 m è omosessuale, sarebbe la fine. Il rischio è quello di non poter più lavorare. Devo dire che cose che succedono anche al giorno d'oggi, insomma, a Hollywood ci sono moltissimi attori gay, ma anche nel mondo della musica, della canzone italiana, della televisione, ci sono un sacco di personaggi che, pur essendo gay, fanno di tutto per tenercelo nascosto. Comunque, mentre Rock interpreta i suoi tanti film western nella prima metà degli anni 50, la casa cinematografica lo propone come modello di uomo forte e tenero. E intanto cancella le tracce. No. Che ha fatto ora? E quello sarebbe il modo di camminare, secondo te? Perché no? Ma se stasera cammini così, siamo fregati. Come devo fare? Vieni qua, vieni. Non strillarmi, eh? Prova a camminare alla John Way. Ah, da duro. Bravo. Sì. John Way scende da cavallo, si avvia verso il saloon, apre la porta e zac, prova anche tu, dai. Devo fare John Way? Prova. Io duro. Ma questa è la sorella di John Wayne. Beh, questa è una scena meravigliosa, famosissima. Tognazzi che cerca di dare lezioni di virilità a Sir Roll nel vizietto. Comunque, le voci girano intanto e nel 1955 la rivista scandalistica Confidential è pronta a pubblicare un articolo in cui si parla della omosessualità dell'attore e la Universal compra direttamente l'articolo per evitare che finisca nelle edicole al prezzo di $10,000. Come vedete, questo era prassi comune anche in quegli anni, quindi nulla da scandalizzarsi se in tempi più recenti il caso Corona, nel quale qualcuno compra delle foto purché non vengano pubblicate, è come dire prassi assolutamente abituale. Ma torniamo a Rock Hudson. Nel 54 si può dire che la gavetta è finita, perché finalmente il suo talento è emerso. Il regista Douglas Sirk, con cui lavorerà altre volte, lo sceglie per La magnifica ossessione, un ruolo drammatico da protagonista nei panni di un miliardario che senza volere provoca la morte di un uomo e poi si innamora della vedova. Was it my fault? I didn't ask you for your resuscitator, you know. Smash up somebody's car when you're drunk and write out a check. Starring Jane Wyman in the most moving, most exciting role of her career. Rock Hudson, magnificently proving the power of love and faith in a great performance. Heartbreak Hotel. Oh, feeling so lonely. So lonely, baby. Feeling so lonely, baby. I could die. La magnifica ossessione è l'antipasto di un successo e di un riconoscimento che arriverà 2 anni e 5 film dopo. Nel 1956 sbaraglia la concorrenza per il ruolo del ricco allevatore texano Jordan Big Benedict nel capolavoro di George Stevens, Il Gigante. Con lui ci sono Elizabeth Taylor e James Dean. Rock Hudson ricorderà così quel ruolo e quel film che gli regalarono addirittura una nomination agli Oscar come miglior attore. Riguardo al gigante, erano molti gli attori a volere quel ruolo, Gable, Gary Cooper per esempio. Cosa convinse il regista e i produttori che tu eri quello adatto? Beh, avevo l'età giusta. Prima di tutto perché all'inizio del film dovevo interpretare un giovane, per poi finire a fare la parte di un nonno. Gli altri candidati sarebbero stati perfetti per la parte da vecchio, ma non sarebbe stato possibile per loro interpretare un ventenne. Io invece avevo 30 anni, se ben ricordo. Quindi potevo interpretare tranquillamente sia un ventenne sia un cinquantenne. James Dean era l'attore più interessante da vedere al lavoro. Voglio dire, aveva un suo stile. Era forse talvolta difficile lavorare con lui per questo? Dovevi entrare nel modo di recitare di James Dean. Aveva un suo stile assolutamente inconfondibile, che non poteva cambiare. Dovevi seguirlo, andare nella sua direzione. Non potevi fare diversamente. Beh, direi che la più grande prova di recitazione di Rock Hudson è quella di cucirsi addosso una voce così evidentemente maschia. E intanto la sua carriera lo proietta ormai tra le grandi star di Hollywood. Nel 1958 la rivista Look lo nomina star cinematografica dell'anno. Dopo ruoli drammatici arriva una nuova stagione. Rock Hudson comincia a manifestare un incredibile talento nei ruoli brillanti, nelle commedie rosa tanto in voga in quel periodo. Lo si vede in Il letto racconta nel 1959, L'amore ritorna del 61, Torna a settembre nello stesso anno, che tra l'altro è un film che è girato a Cinecittà in Italia con la star italiana per eccellenza Gina Lollobrigida. Dall'eremo canadese sono ritornati in Italia Gina e marito. Per Milko una patria o l'altra fa lo stesso, basta portare a casa un po' di quattrini. Gina Lollobrigida sarà l'interprete del film Viene settembre, che la vedrà accanto al doppio fusto hollywoodiano Rock Hudson. La favola del figliol prodigo ha fatto ormai il suo tempo. Comunque l'arte non ha confini né barriere nazionali. Anche travestita da nordamericana, le virtù della bersagliera rimangono tutte italiane. Si dice tra l'altro che Gina Lollobrigida abbia rappresentato per Rock Hudson, diciamo, una uscita dalla sua tendenza principale e che ci sia stato un flirt tra i due, e noi lo auguriamo al buon Rock Hudson. Tra l'altro in quel film c'è anche un'altra attrice italiana che allora era ancora sconosciuta e che interpreta una piccola parte. Vi dico di chi si tratta tra poco, quando torniamo con Il Falco e il Gabbiano. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Rock Hudson, la stella di Hollywood, e soprattutto il suo terribile travaglio interiore per essere nato come attore idolatrato da un pubblico femminile e quindi costretto a nascondere la sua omosessualità, che poi, ahimè, esploderà con la sua tragica fine proprio per AIDS. Ci siamo lasciati prima della pausa con una specie di quiz. Parlavamo del film del 1961 Torna a settembre, girato a Cinecittà con Gina Lollobrigida, ma in quel film c'è anche un'altra attrice italiana, neanche 25enne, agli esordi. Si tratta di Milena Vukotic. Milena Vukotic ha fatto l'attrice per Fellini, per Scola, per Zeffirelli e per tanti altri, e ha questo strano destino di essere ricordata soprattutto per essere Pina, la moglie di Ugo Fantozzi, del ragionier Fantozzi. E invece, al di là di quella prova comunque che ricordiamo con simpatia e affetto, Milena Vukotic è una delle più grandi attrici italiane. Ci siamo fatti raccontare da lei qualche ricordo da quel set con Rock Hudson. Io ero appena arrivata da Parigi, avevo deciso di venire a Roma per cercare di fare il cinema con Fellini. Mi sono ritrovata improvvisamente di fronte a questi due mostri, fra cui appunto Rock Hudson e la Lollobrigida. Mi ricordo che chiacchierava con la Lollobrigida e noi eravamo lì ad ascoltare, perché era un'atmosfera abbastanza sospesa. Noi giravamo lì a Cinecittà, per cui già lì c'era questa atmosfera di grande set che si poteva appunto immaginare solo dall'altra parte del continente. Mi ricordo di lui che era molto cordiale, era molto normale, così fra virgolette. Ero io, eravamo noi che lo vedevamo così inaccessibile, invece alla fine era molto, molto semplice. il Rock Hudson di quegli anni è il campione delle commedie rosa, quei film brillanti che lo vedono spessissimo in compagnia di un volto, anzi di una capigliatura bionda inconfondibile, quella di Doris Day. E i due diventano profondamente amici e lo saranno fino alla morte di Rock Hudson. Il primo incontro avviene sul set di The Pillow Talk, Il letto racconta. Sentiamo il ricordo di quel primo incontro proprio da Doris Day. Incontrai Rock per la prima volta nel 1959, quando ci arrendemmo all'idea di fare un film assieme, Pillow Talk. Rock non aveva mai recitato in una commedia prima di allora e inizialmente era un po' nervoso, ma quando venne a trovare me e mio marito nella nostra casa al mare prima delle riprese, mi resi conto di quanto fosse genuinamente divertente. Capii immediatamente che sarebbe stato grande e, ragazzi, se lo era. A volte sul set ci capitava di dover girare nuovamente una scena perché ci veniva da ridere. A volte mi chiedo perfino come siamo riusciti a finire quel film. Nel corso delle riprese di Pillow Talk, Rock mi soprannominò Eunice. Così quando al mattino arrivava in studio, lui chiamava Eunice e io, tirandomi indietro sulla poltrona della truccatrice, rispondevo «Sono qui!» e così scoppiavamo a ridere. When you're in this game, it's the price you pay. Hey, what's it all about anyway? When you're losing sleep, 'cause the ghost won't hide. If you can't compete, take a walk outside. Shame, you think that you can pick up all the pieces. See the sun don't shine, that's when you'll find me laughing at the rain. Un viso e un fisico perfetto, quello di Rock Hudson, per i ruoli romantici con Doris Day e con le altre attrici in voga all'epoca. E per fermare le voci che continuavano insistenti sulle preferenze sessuali di Hudson, gli studios lo convincono a organizzare un matrimonio di comodo con la sua segretaria di allora, Phyllis Gates. È un vero e proprio matrimonio di copertura, dura dal 1955 al 58, con giornali inondati di foto non solo della cerimonia, ma anche di immagini di presunti momenti privati dei due. Dopo la morte dell'attore, la donna dirà che per lei quell'unione non fu mai finta, bensì autentica, e che seppe solo molti anni dopo delle manovre attorno a lei e al marito. C'è anche da dire che molto di recente è diventata pubblica una registrazione audio tra i due, intercettata da un investigatore privato che vendeva segreti sulle star ai giornali. Si chiamava Fred Otash. Sentiamo ancora Paolo Lì sulla vicenda. E lo misero sotto controllo perché appunto volevano scoprire questa cosa, eccetera, i quelli di Confidential. Quando lui ha fatto l'intercettazione con le cimici, c'è la, il documento, è diventato pubblico adesso da qualche anno, e loro due sono soli in casa. Lei a un certo punto dice: non capisco perché tu non fai più l'amore con me, non ti piaccio più, ti respingo, mi devi dirmi la verità, eccetera, perché gira questa voce, lei glielo dice. E lui a un certo punto dice: sì, è vero, però guarda che così. Allora viene una vita furibonda e poi si separano. Dagli inizi degli anni 70 Rock Hudson inizia a ridurre il numero di film, è presente in una pellicola all'anno, ma intanto prova altre strade. Nel 70 incide un album come cantante dal titolo Rock Gently, 14 canzoni scritte da un amico, Rod McEwen, che ha scritto per Frank Sinatra e per Perry Como. Del resto lui ha sempre avuto una bella voce profonda e quindi mette a frutto le lezioni di canto degli inizi. L'anno dopo, nel 1971, sbarca in televisione, è protagonista del telefilm Macmillan e Signora, interpreta per 40 episodi il ruolo di un commissario di polizia quarantenne che risolve i casi grazie all'intuito della moglie Sally, interpretata da Susan St. James. Dunque la serie va in onda sulla NBC e per questo telefilm Hudson fissa un nuovo record per i il compenso che riesce a farsi pagare. Ma nonostante ciò si narra di un rapporto difficile con la partner, perché pare che lei fosse pagata ancora più di lui. Ormai Rock Hudson è a tempo pieno una star televisiva, e se si eccettua l'ultimo grande film interpretato, è il 1980, e Hudson fa parte di un cast stellare per l'adattamento di un famoso giallo di Agatha Christie, Assassinio allo specchio. In quel film ci sono Liz Taylor, cara amica di Rock Hudson, in genere insomma croce rossina di tutti i gay americani, Tony Curtis, Angela Lansbury, Kim Novak e un giovanissimo Pierce Brosnan, che poi diventerà 007. Poi nel 1982 un'altra serie TV, Devlin and Devlin. Ladies and gentlemen, the man who uttered that poignant message, one of the world's favorite actors and the star of the new NBC television series The Devlin Connection, Mr. Rock Hudson. Sta per arrivare l'ultimo atto professionale per il divo de Il Gigante, perché nel 1984 Hudson partecipa a una serie molto popolare in quel periodo, la serie concorrente di Dallas. Che appassionato avrà capito dalla sigla, stiamo parlando di Dynasty, il grande rivale di Dallas, che si spartivano l'interesse mediatico delle serie televisive. Ma in quel periodo Rock Hudson comincia a dimagrire vistosamente, comincia ad avere cali di memoria, è evidente che le sue condizioni di salute non sono buone. In realtà lui sa già che la ragione di tutto questo si chiama AIDS, l'ha scoperto grazie a una visita medica nel giugno del 1984, ma nasconde la verità, perché l'AIDS in quegli anni è considerata una specie di peste, è un marchio legato alla vita dissoluta, al sesso omosessuale occasionale, alla tossicodipendenza, allo scambio di siringhe. E Hudson non ha certo rivelato di essere gay, e quindi nasconde anche la diagnosi. Comincia a spiegare il calo impressionante di peso con un'anoressia nervosa, poi con una forma di anemia, addirittura parla di cancro al fegato pur di nascondere la verità. Però questa magrezza spaventosa non può passare indifferente. Quell'anno lui va in TV per promuovere lo show della sua vecchia amica Doris Day, Doris Day Best Friends. Ma lui è così magro e deperito che la stessa attrice rimane impressionata. E poi lui in quel periodo vola spesso a Parigi per sottoporsi a misteriose cure, le ultime cure a disposizione della medicina, anche se in quel momento di cure non è che ce ne siano molte. Just what is wrong with Rock Hudson? Cosa succede a Rock Hudson? Il 59enne attore è stato ricoverato stanotte in un ospedale a Parigi per una serie di esami medici. La natura della sua malattia è ancora confusa e sconosciuta. Ieri era stato riportato che Hudson ha un cancro al fegato. Poi si è parlato di AIDS, ma oggi l'ospedale ha negato la storia del cancro e non ha detto nulla riguardo alle voci sull'AIDS. Un portavoce ha detto che Hudson è solo stanco. Ma ormai la finzione è finita. Rock Hudson ha contratto l'HIV, il virus che in quegli anni sta facendo strage. In ultimo tentativo di salvarsi o perlomeno di alleviare le proprie sofferenze, chiede aiuto a un vecchio amico attore, che però in quel momento siede nello studio ovale, Ronald Reagan. Negli archivi della Casa Bianca è stato trovato un telegramma in cui un portavoce di Hudson chiede un intervento del presidente americano per accedere a una struttura sanitaria francese che è sotto il controllo del Ministero della Difesa di Parigi. Quindi un ultimo telegramma drammatico, e il telegramma viene bloccato da quella santa donna della First Lady, Nancy, che risponde picche: io temo che sia avvenuto perché non era il caso che un presidente così conservatore come Ronald Reagan potesse aiutare l'amico che subisce il flagello dei gay. Rock Hudson muore il 2 ottobre 1985 per le conseguenze del virus. Gli ultimi giorni della sua vita sono seguiti da un pubblico vastissimo. È una morte pubblica, anche perché per la prima volta la porta viene aperta a un tema così difficile e allora sconosciuto. È un tema che fu per molti anni il regno del pregiudizio, della disinformazione. La sua scomparsa è un trauma per tutto lo star system, per il pubblico, per gli amici, tra questi naturalmente Doris Day, che qualche anno fa lo ha ricordato così. Succedeva spesso che Rock mi facesse visita quando mi trovavo in una location per un film. Ci trovavamo così a ridere arrivando sul set, godendoci la nostra bellissima e fortunata amicizia. Diventammo amici fin dal nostro primissimo incontro e lui continuò ad essere parte della mia famiglia per tutta la sua vita. Infatti, l'ultima apparizione pubblica di Rock fu con me mentre stavo lavorando ad uno show televisivo. Quando Rock morì, il mondo perse un attore di talento e un grande uomo. E io persi il mio più caro amico, che ancora oggi mi manca così tanto. Questa era la storia di Rock Hudson, il divo del cinema della Hollywood forse più bella da ricordare, quella dei western e delle commedie romantiche alla Sandra Dee. Però anche la Hollywood perbenista, che non poteva accettare che un idolo delle donne americane potesse essere omosessuale e addirittura potesse incappare nella peste del secolo, l'AIDS. Queste sono le nostre storie, storie di chi è riuscito e di chi ha avuto cadute e risalite. E noi aspettiamo i vostri commenti e anche i vostri consigli e le vostre segnalazioni sulle nostre pagine Twitter, Facebook, Il Falco e il Gabbiano. Venite a cercarci, che ci trovate. A lunedì. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.